Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e ben ritrovati. Oggi siete pronti? Noi vi portiamo al Salone del Mobile, un evento straordinario che trasforma Milano. La città si accende, viene arredata, potremmo dire, no? Si diventa ancora più bella. Ancora più bella, sì. Più di 1000 eventi cui partecipare, oltre 2400 espositori tra Salone del Mobile e fuori Salone, 9 distretti della città in cui andare alla scoperta dell'innovazione e del gusto. Insomma, come recita il claim di questa 55esima edizione? O ci sei o ci deve essere, e noi ci siamo oggi, Deborah, come potevamo mancare, e siamo qua in diretta dallo stand di Cucine Lube. Diciamo che i saloni in questo tu sei periodo... a casa. Sì, esatto, perché è un brand molto noto marchigiano, ma no, volevo fare una battuta sul fatto che i saloni non ci sono mancati in questo periodo, no, non ci siamo fatte mancare nulla. Siamo le donne con la valigia o le donne del salone. Esatto, infatti ci fa piacere particolarmente essere in questo contesto di questo settore produttivo, un vanto del Made in Italy italiano, perché il settore dell'arredamento appunto ha vissuto un lungo periodo di grande crisi, concomitante appunto alla crisi del mercato immobiliare. Questo invece è un momento di grande rilancio nazionale ed internazionale per il comparto del legno arredo, per cui speriamo anche da questa occasione di poterlo raccontare. Nicoletta, dove cominciamo a mettere il naso? Allora, noi dove andiamo? Andiamo in cucina, che è il cuore della casa. Che ci piace. Assolutamente, e abbiamo invitato anche un'amica, la dottoressa Anna Villarini, biologa nutrizionista e autrice di Prevenire in cucina mangiando con gusto. Buongiorno dottoressa Villarini. Buongiorno a voi. Pronto? Pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottoressa, noi lo sappiamo bene, no? La teoria la conosciamo tutti, sappiamo come dobbiamo mangiare, che dobbiamo seguire una dieta varia ed equilibrata, fare con attenzione la spesa, non sto a ripetermi perché sennò faccio la maestrina, ma lei sa bene che poi quando dalla teoria si passa alla pratica è lì che cade l'asino. E allora per pigrizia, per mancanza di tempo, perché magari abbiamo fame, ecco che magari abbiniamo gli alimenti in modo non corretto, oppure abbondiamo troppo nei condimenti, risultato finale che tutte le nostre, i nostri progetti e le nostre attenzioni si frantumano. Allora oggi con lei, e quindi lo invito e lo anticipo anche agli ascoltatori, di che cosa parleremo? Parleremo di una cucina che appaga sicuramente il gusto, ci fa risparmiare anche tempo, salva la linea, salva la salute senza tante rinunce, ma diremo di più, parleremo dei metodi di cottura, parleremo degli alimenti che in cucina non devono mancare, parleremo anche delle compensazioni. Mi piace usare questo termine anche se inadeguato, improprio, perché ci sono delle situazioni in cui ci viene voglia di mangiare magari il nostro piatto preferito e sappiamo che non è proprio quello che ci farebbe bene, ma con un po' di attenzione, facendo magari mangiandolo in un momento della giornata o abbinandolo a alcuni alimenti, ecco che si trasforma non in un peccato di gola ma in un rifornimento di energia. Dottoressa Villarini, ho detto tutto? Verissimo, lei è pronta per questa maratona? Tutto. E voglio anzi aggiungere che nella vita un po' di sana trasgressione ci fa bene, quindi proprio il mangiare, anche quello che sappiamo che non dobbiamo mai mangiare, qualche volta può far così bene al nostro cervello e farci sentire così sereni, felici, appagati, che va bene anche questo. E attenzione, a proposito di trasgressione, parleremo anche della Carbonara Gate sulle pagine esatto. Di tutti i giornali. Voi come ve la cavate con la carbonara? Noi vi daremo la ricetta, commenteremo naturalmente la ricetta francese. Ma quando mai i francesi, perché devono iniziare a fare la carbonara? Guarda, io non lo so, mistero, con tutte le cose che potrebbero fare. È un mistero che sveleremo in qualche modo. E soprattutto come mangiare la carbonara, come inserirla in una dieta sana ed equilibrata, ma naturalmente la carbonara di casa nostra. Deborah. Tra l'altro so che qualche area qui a questo salone sarà animata da qualche show cooking, magari andremo anche a curiosare al termine della nostra trasmissione, Nicoletta, vedremo certo. Se potranno offrirci qualcosa. Pancia mia, fatti capanna. Esatto. I flash di denari di questa puntata, allora parleremo delle nostre cucine, delle nostre case, case in Italia spesso lo sappiamo fa rima con banca. Allora noi vi faremo un punto della situazione sul fondo di stabilizzazione del sistema bancario che è stato varato ieri sera. Poi per quello che riguarda invece proprio il settore dell'arredamento, di come poter abbellire le nostre case, parleremo delle agevolazioni fiscali per il nostro nuovo arredamento, tutto il nuovo regime in vigore per gli under 35, e avremo un ospite speciale più tardi, un creativo speciale, si chiama Felice Limosani, è fra i protagonisti del Fuori Salone che anima Milano in questi giorni, fa una cosa molto particolare, si occupa di installazioni ma anche lui in qualche modo crea degli ambienti più belli per noi. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo. È uno slogan perfetto per una campagna di prevenzione, Deborah, modernissimo nei suoi 2000 anni di storia, rivoluzionario nella sua semplicità, porta la firma di Ippocrate, il primo vero medico della storia. Allora, se non lo siamo già, diventiamo fan di Ippocrate, vorremmo lanciarvi proprio questa proposta, fondiamo un fans club o un gruppo su Facebook, noi mettiamo un post sulla nostra pagina, naturalmente voi dovete mettere il vostro like e poi ci muoveremo con consigli molto mordi e fuggi, come ci vengono richiesti, quindi fruibili da tutti all'ascolto. Voi catturate un consiglio mentre state andando in macchina oppure ci state seguendo, poi una telefonata vi chiama mentre ma noi state cucinando nelle vostre cucine magari. Esatto, e noi cucineremo oggi proprio con la dottoressa Villarini. Dottoressa Villarini, allora, obiettivo di questa puntata è un po' di trasgressione, ma farla con intelligenza, e quindi lei ci deve aiutare a un po' correggere il tiro. Mangiare è anche soprattutto un piacere, una gratificazione, sì. E quello che mangiamo ci permette anche di stare bene e di mantenerci sane. Sì, queste è sono vero. Un po' le indicazioni sì, che... È vero. Da che è cosa si comincia vero. Allora, dottoressa Villarini? Ma inizierei col dire quelli che sono i cibi più sani che dovrebbero essere sempre presenti sulle nostre tavole, poi piano piano magari arriveremo alle trasgressioni, no? Quello che allora, ci dicono facciamo un elenco di alimenti. Allora, facciamo un elenco di quelli fondamentali, che sono i cereali integrali, i legumi, la verdura e la frutta, perché oggi purtroppo tendiamo a portare nelle nostre cucine cereali raffinati, invece la ricerca ci dice che i cereali integrali sono decisamente migliori, e dato che abbiamo un po' perso l'abitudine a cucinarli, la cosa interessante è proprio entrare in una bella cucina e sperimentare anche ricette nuove, perché l'alimentazione deve essere un po' un gioco. Mangiare le cose che ci piacciono tutti i giorni alla fine può diventare anche noioso e monotono, le cose che conosciamo da sempre, no? Quindi sperimentare strade nuove può essere veramente interessante. Dottoressa Villarini, allora voi insistite, intendo voi medici, nutrizionisti, sui cereali integrali. Sì. Ci dia due buone ragioni per fare questo cambio, quindi, o almeno inserirli con maggiore frequenza nella nostra alimentazione. Allora, le due che buone ragioni più importanti sono la presenza di fibre. Forse non ci sentiamo tanto bene. Scusate, infatti mi accorgo anche io. Dicevo che le due ragioni più importanti per consumare cereali integrali sono la presenza di fibre, che sappiamo fanno molto bene al nostro intestino, nutrono la flora batterica intestinale, aiutano a chi soffre di stipsi, quindi aiutano proprio a regolare il funzionamento intestinale, quindi sono proprio utili per tante cose, ci proteggono anche dalle sostanze eventualmente tossiche o cancerogene che potremmo trovare all'interno del cibo che andiamo a mangiare magari successivamente. Ma l'altro fattore importante è l'indice glicemico. Si parla tanto oggi dell'indice glicemico perché gli alimenti che fanno alzare velocemente la glicemia nel sangue sono alimenti che non fanno bene alla nostra salute, le farine raffinate purtroppo sono così, e quindi tutti i cibi fatti con queste farine, ma anche i cereali raffinati, come ad esempio può essere il riso bianco. Invece se noi utilizziamo alimenti ricchi di fibre, le fibre rallentano l'assorbimento di questi zuccheri che derivano dagli ami dei cereali, e quindi i cibi diventano medio o basso addirittura indice glicemico, e questa è una protezione. È una protezione anche per il peso, si parla tanto di ingrassare, no? Quando noi mangiamo cibi che alzano velocemente la glicemia, poco dopo abbiamo di nuovo fame di questi cibi. Invece se mangiamo cibi a basso indice glicemico, la fame arriva più tardi, quindi ingeriamo meno calorie e indirettamente controlliamo anche il peso. Allora, dottoressa Villarini, andiamo a sentire insieme che cosa succede sulle strade e sulle autostrade subito dopo. Restate con noi perché la dottoressa Villarini ci farà un elenco degli alimenti a basso indice glicemico, quelli che ci aiutano quindi a mantenerci in salute, a non ingrassare e a stare meglio. A tra poco. Cuore e denari. And that's right. Siamo in diretta dal Salone del Mobile, in diretta dallo stand di Cucina e Lube. Stiamo cucinando, stiamo cercando di evitare degli errori oppure aggiustare un po' il tiro. Quando abbiamo voglia di mangiare un alimento che sappiamo che ho preparato in un determinato modo, che sappiamo che il nostro medico non gradirebbe tanto. Potrebbe essere un alimento ad elevato impatto glicemico, quindi magari correggiamo un po' il consumo di questo alimento. Mettiamo al lavoro la dottoressa Villarini. Dottoressa Villarini, ci fa un Eat Parade degli alimenti a basso indice glicemico, ci dà delle indicazioni per sceglierli anche in modo rapido ed efficace? Ma certo. I cereali integrali sono quasi tutti a medio basso indice glicemico, il riso integrale, l'orzo, il farro decorticato ad esempio, ma tra i risi raffinati troviamo il basmati, che ha un amido particolare, quindi è a medio indice glicemico anche quando è raffinato. Poi ci sono tutta una serie di cereali nuovi che stanno entrando sulle nostre tavole, il miglio, la quinoa. Il miglio l'abbiamo dato ai canarini per tantissimo tempo, poi abbiamo scoperto che è buono e quindi l'abbiamo riportato sulle nostre tavole. Ma a medio indice glicemico c'è la pasta, cosa meglio in Italia, anche quando è raffinata, perché si fa con la semola di grano duro, e il grano duro non ha un alto indice glicemico naturalmente, no? Certo, sempre meglio integrale così è ricca di fibre, però va bene anche la pasta normale. E poi i legumi sono a medio indice glicemico. E poi se vogliamo mangiare un piatto fatto invece con dei cibi raffinati di quando in quando, mettiamoci un pochino di grassi buoni. I grassi buoni, come penso l'olio extravergine d'oliva, riducono l'indice glicemico di tutto il piatto. O abbiniamolo a delle fibre, abbiniamolo a tante verdure, ecco, così giochiamo un po' con gli alimenti. Dottoressa Villarini, sicuramente anche la cottura incide sull'indice glicemico, quindi l'indicazione è: mangiate, se vi piace la pasta, mangiatela al dente, come insegna la tradizione italiana. Infatti, la pasta del dente ha un indice glicemico più basso, ma c'è ad esempio un altro alimento che naturalmente avrebbe un indice glicemico alto e che cotto nella maniera adeguata lo riduce un po', che sono le patate. Noi sappiamo, la ricerca internazionale ci dice di non farne un grande consumo, non dobbiamo considerarle degli ortaggi proprio perché hanno anche tante calorie, però quella volta che le vogliamo mangiare, se le mangiamo lessate e non calde, l'indice glicemico si riduce tanto, quindi meglio fatte in questa maniera, con un filo d'olio anche lì, un pochino di prezzemolo come si fa anche nella tradizione della mia terra, che non fritte, ecco, le fritte limitiamole. Ecco, ma nel corso della trasmissione, dottoressa Villarini si prepara, le chiederemo anche le regole di una buona frittura, perché ogni tanto no, una bella frittura ci vuole e possiamo permettercela. Bisogna, se noi giochiamo un po' d'astuzia e l'abbiniamo ad un bel piatto di verdure crude, le crudite, o un piatto di insalata, insomma paghiamo meno pegno. Ma vorrei tornare assolutamente, la dottoressa Villarini parlava di pasta. Alla notizia del momento, direi. Guarda un po'. Esatto, allora questa faccenda della carbonara, peraltro su Facebook circolano tantissimi filmati su come appunto i francesi si starebbero sbizzarrendo a prepararla, naturalmente modalità che ha fatto indignare l'italiano nudo e crudo e puro della carbonara. Potrebbero anche fare altro, invece vogliono cimentarsi nella carbonara, e allora c'è questo Carbonara Gate. Intanto salutiamo Andrea Ribaldone, ciao Andrea, il nostro chef stellato dei Due Buoi di Alessandria, ciao. Ciao a tutti, ciao Nico. Allora, senti, intanto vi voglio leggere da Repubblica la ricetta, no? Dice: nella pentola ripresa in primo piano finiscono una dopo l'altro cipolle, pancetta, pasta cruda e un bicchiere d'acqua. Seguono 15 minuti di stracottura a fuoco dolce, una mescolata con un cucchiaio di panna acida, parmigiano, pepe, un tuorlo d'uovo crudo e prezzemolo. Allora, l'articolo continua: 46 secondi per distruggere fin dalle fondamenta un piatto simbolo della tradizione italiana, la carbonara. Tra l'altro la dottoressa Villarini diceva: mi raccomando, la pasta al dente, già i francesi inciampano su questo. Altra cosa, usano le farfalle al posto dei bucatini. Andrea, dacci tu la ricetta della carbonara. Allora, diciamo una cosa, io non sono un purista, come tu sai, anche, quindi amo anche la rivisitazione, però questa non è la carbonara. Ecco, un attimo, questa... voglio dire a Deborah un piccolo gossip. Dimmi. Sai che Andrea è stato bastonato dalla compagnia dei pizzoccheri perché ha fatto un pizzoccaro ribaldonesco e naturalmente queste compagnie, no, queste di che si sono di buon gustai, che è quella del pesto, violazione della tradizione. Certo, è stato detto ha avuto questo, le però, sue la carbonara alla francese non sì, può certo, passare. C'era ecco. L'aglio di Cracco, il burro di Oldani, il latte di ribaldone, perché io avevo fatto una fonduta invece che mettere puro formaggio, ma vabbè, quindi ripeto, secondo me se la rivisitazione questo è il tuo riscatto Andrea la rivisitazione deve essere intelligente e comunque deve rispettare il piatto. Questa invece francese mi sembra veramente una cozzaglia di ingredienti. Io farei così, farei, prendo le uova, solo il rosso delle uova. Volendo, se fosse troppo asciutto, aggiungo un pochino d'acqua di cottura degli spaghetti, quindi gli spaghetti cuociono in acqua, in una pentola con una frusta giro tutto il rosso d'uovo fino a che sia una crema morbida e la metto a bagnomaria in modo che leggermente pastorizzi, quindi non è puro, perché c'è sempre un po' il problema che poi ha questo odore intenso di uovo, mentre con la pastorizzazione aiutiamo e soprattutto anche a livello igienico non abbiamo più problemi. Aggiungo cioè, il pecorino. La carbonara non sa di uovo. Esatto, meno è uovo, però saprà meno di uovo. Aggiungo il pecorino romano, aggiungo il pepe, faccio a parte saltare in pentola il guanciale. A quel punto gli spaghetti scolati, magari anche con un pochino di acqua di cottura, così se l'uovo fosse troppo denso rimane più morbido, deve essere proprio cremoso, e quindi gli spaghetti fuori fiamma. Questo è molto importante, altrimenti in gergo si dice poi l'uovo si straccia, quindi non dobbiamo avere una frittata nel piatto, dobbiamo avere una crema di uovo. Quindi gli spaghetti fuori fiamma, giriamo, se fosse il caso aggiungiamo di sapore, un pochino di pecorino o se ci piace ancora un goccio di pepe, e mettiamo sul finire il nostro guanciale che abbiamo saltato, reso croccante in padella. Un filo d'olio se manca ed è pronta, voilà. Voilà, Deborah te la faccio stasera. Ormai so tutto. Sono pronta. Allora, grazie ad Andrea Ribaldone per essere stato con noi. Dai, ti sei riscattato dopo il pizzoccaro, ricordo. Lo scivolo nello chef stellato dei due buoi di Alessandria. Ci va fantasia, ci va libertà. Ma brava, fantasia. Brava, fantasia, innovazione e creatività. Prendiamoci un po' meno sul serio, perché è solo cucinare, non siamo neurochirurghi, quindi a volte ci sono delle polemiche, ma veramente come se toccassimo cose sacre, quindi un po' meno sul serio. Sante parole, Andrea. Allora, con questa ricetta poi la dottoressa Villarini dopo il GR ci dirà quando e come mangiare la carbonara senza sensi di colpa e senza appesantire la linea. GR e torniamo insieme. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Del mio castello sono la regina ed il mio regno è la cucina. Il corridoio Anche noi ci sentiamo un po' regine qua al Salone del Mobile di Milano, ospite dello stand di Cucine Lube. Parliamo naturalmente di alimentazione, di cucina, di trucchi, di segreti per coniugare, come si dice, gusto e salute, non tante rinunce, ma utilizzare proprio i piatti giusti al momento giusto della giornata. E dopo il Carbonara Gate e la ricetta di Andrea Ribaldone, insieme alla dottoressa Villarini, che è ancora in linea con noi, cerchiamo di capire quando è il momento ideale, il momento migliore, come si fa a mangiare la pasta, perché noi abbiamo i geni pastaroli. Quando sì, rinunciamo alla pasta, lo facciamo solamente per in occasione della prova costume, o perché proprio no, ci tirano per i capelli, perché insomma la pasta dà grandi soddisfazioni. Ci sono dei trucchetti per mangiare la pasta senza ingrassare, dottoressa Villarini. Uno ad esempio è cuocerla al dente, un altro potrebbe essere mangiarla nella prima parte della giornata, perché così assorbiamo, prendiamo tutta l'energia. Ma le passo la parola perché lei ci darà dei segreti che noi ancora non conosciamo. Ma certo, ma il segreto più importante per mangiare la pasta è non mangiare tutti i giorni la carbonara. Cioè quello che conta non è tanto la pasta in sé, perché la pasta non ci fa ingrassare così tanto. Quello che ci fa ingrassare sono i condimenti che noi andiamo ad utilizzare. Cioè, ti ho sentito queste due ricette di pasta alla carbonara. Quella francese è proprio molto lontana da me. Io da umbra preferisco la ricetta che ha proposto lo chef. Ma non si deve mangiare tutti i giorni, perché esiste un segreto nell'alimentazione che è fondamentale, no? Quello di variare la nostra alimentazione il più possibile e di mangiare quotidianamente cibi più sani, cioè fare una dieta più sana, e poi di quando in quando concederci anche queste ottime, dal punto di vista del gusto, eccezioni che sono le ricette che ci sono state presentate. Ecco, il condimento ideale per la pasta sono le verdure. Fare la pasta con delle verdure è una cosa veramente ottima, specialmente se noi andiamo a seguire la stagionalità, così quelle verdure ci danno anche tutti i nutrienti di cui sono ricche proprio nella loro stagione. Poi se qualche volta anche la vogliamo mangiare la sera, sì, non è così importante, non va mangiata sempre sulla pranzo, in uno dei due pasti, e magari a volte, anche se ci piace tanto, alternarla per la regola del variare anche con dei cereali in chicco, non sempre solo pasta. Dottoressa Villarini, allora ci chiedono il suo parere su cereali quali il miglio, la quinoa. Mi sembra che lei si sia già ben espressa e abbia già descritto bene la sua posizione riguardo a questi cereali, e invitiamo i nostri ascoltatori magari a riascoltare la puntata, perché il cereale integrale ci fa bene. Ci sono tante e diverse ragioni che vanno dalla salute al mantenimento del peso, oltre alla proprio varietà che possiamo aggiungere in cucina. Dottoressa Villarini, allora i francesi ancora non si sono sbizzarriti magari con una ricetta, anche se è maionese, lo usano sicuramente l'olio, no? per preparare la maionese. Parliamo di questo farmalimento che ha tutti gli effetti. Mi stavo dissanguando in onda. Avete visto? Non mi ero neanche accorta. Avevo un taglio e stavo zitta, sanguinante. Soffrendo in silenzio. Dottoressa Villarini, aiuto! Allora, no, parliamo in questi ultimi minuti di parte dedicata un po' al cuore, all'alimentazione, alla salute, dell'olio extravergine d'oliva, di questo farmalimento. Spesso siamo tentati, no? Non sappiamo quando dobbiamo aggiungerlo, facciamo un giro d'olio, dobbiamo andare a cucchiai o cucchiaini, è meglio sempre aggiungerlo a fine cottura. Dottoressa, che cosa dobbiamo fare per prendere dall'olio tutto il meglio e per non esagerare, perché anche la quantità fa la differenza? Certo. Ma l'olio extravergine d'oliva in assoluto viene confermato da tutti gli studi, è il grasso migliore che noi possiamo utilizzare come condimento, e questo per la presenza di alcune sostanze interessanti come i polifenoli, che sono delle sostanze antiossidanti, come l'acido oleico, che è l'acido, il grasso che lo contraddistingue, che abbiamo visto che aiuta a proteggere il nostro cuore, le nostre arterie, perché riduce un pochino quello che chiamiamo colesterolo cattivo, cioè l'LDL, per la presenza di vitamina E, molto utile nell'uomo, perché ad esempio sappiamo che aiuta a proteggere dalle malattie della prostata, quindi è certamente un ottimo alimento. Ma quello che ci dice la ricerca è che noi dobbiamo consumare anche tutti i giorni, ma non più di 20-30 grammi, che sono 2-3 cucchiai da cucina, perché se esageriamo, allora poi rischiamo di ingrassare, perché comunque in 100 grammi di olio ci sono 900 calorie. 900 calorie sono tante, per una donna sono quasi la metà delle calorie che dovrebbe mangiare in una giornata, e non ce le possiamo giocare tutte con un condimento. Quindi sì, spesso, ma in una quantità accettabile, poco, 3 cucchiai in una giornata. Dottoressa Villarini, cotto o crudo? Si pensa, perché sì, sotto sotto si pensa che se aggiungo l'olio a crudo ingrassi meno. In realtà la cosa non è proprio esattamente così. Rischio anche a crudo, magari ho il vantaggio di prendere, no, tutto il meglio dell'olio, anche i sapori che magari nella cottura vanno persi. Ma dottoressa Villarini, chiariamo che cotto o crudo le calorie sono le stesse, anche se ormai non parlate più di calorie. Si parla oramai poco, però noi siamo calorie, ancora affezionati a questo concetto. Certo. No, però è vero, cotto o crudo le calorie sono le stesse, quindi se vogliamo guardare solo l'aumento di peso non cambia assolutamente niente. È vero anche che crudo permette di assorbire meglio e di garantire la presenza di queste sostanze antiossidanti che con la cottura un po' si andrebbero perdendo, ma dobbiamo sapere che comunque l'olio extravergine d'oliva è il miglior olio per una buona frittura, cioè resta anche cotto, resta l'olio migliore. Una buona frittura si fa o con l'olio extravergine d'oliva, parlo ovviamente dal punto di vista nutrizionale perché è un olio che si danneggia poco, o ad esempio con un olio di arachidi, però sono questi gli oli da preferire e non riutilizzarli mai più di una volta, perché nel momento in cui noi abbiamo utilizzato e riscaldato ad alte temperature un olio, questo comunque subisce delle alterazioni, e se noi andiamo a riscaldare ripetutamente, allora queste alterazioni possono diventare proprio vere sostanze tossiche che andiamo a ritrovare nel cibo quando andiamo a mangiare la frittura. Dottoressa, allora in cucina ci sono tante mode, ci sono anche invece una sorta di discipline, parliamo di tanti modi di alimentarsi, vegani, vegetariani, macrobiotici, dieta mediterranea, stili, ma che in alcuni casi sottintendono anche delle scelte etiche, su cui non vogliamo intervenire anche perché poi dobbiamo passare ad altri temi. Passiamo in rassegna questi stili alimentari e di ciascuna ci faccia una raccomandazione, ad esempio i vegetariani, a quali attenzioni devono avere in cucina e nella scelta della loro dieta, nel preparare il menù? Allora, sicuramente i vegetariani e anche i vegani ci hanno insegnato a riscoprire tante ricette a base di cibi vegetali che sono fondamentali, perché le avevamo un po' perse dando troppo spazio ai cibi animali, però i vegetariani a volte peccano nel consumare troppo latte, troppi latticini, troppi cibi raffinati, e questo va poi a discapito del peso, perché si vanno ad inserire a mangiare troppi grassi saturi, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice fate una grande attenzione perché non dovrebbero essere più del 10% del consumo complessivo, e quindi questo raccomanderei ai vegetariani. Ai vegani direi invece di fare molta attenzione oltre ai cibi raffinati, perché a volte tendono comunque anche i vegani a mangiare cibi ad alto indice glicemico, escludendo tutto quello che ovviamente è animale, ma nel mondo vegetale è facile incappare in questo errore, direi di controllare bene, monitorare i propri esami del sangue, perché la carenza vera che rischiano i vegani è di vitamina B12, e allora se devono andare che ad integrare... Che si trova invece, dottoressa Villarini, vitamina B12, ricordiamo, si trova... Principalmente nei cibi animali, nei cibi vegetali non è presente, a volte però un vegano può non avere carenza perché in parte può essere prodotta dai batteri intestinali, ma solo in parte, solo in alcuni casi, è abbastanza difficile, è una carenza che si verifica spesso. Allora in questo caso io inviterei, se devono prendere un integratore, a rifare una buona valutazione su quello che è la loro alimentazione, perché è sempre bene cercare di avere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno attraverso il cibo, e ricorrere a un integratore solo come ultima spiaggia, non come prassi. Ecco. Per quello che riguarda la macrobiotica è una filosofia di vita, è proprio difficile spiegarla in due parole, che si basa sui famosi yin e yang, però in realtà anche se in maniera molto ridotta alcuni cibi, in maniera molto abbondante altri, con la macrobiotica si mangia mangia tutto, è abbastanza equilibrata, alla base c'è il cereale integrale, i legumi e raramente i cibi animali, quindi può anche essere un'alimentazione facilmente gestibile. Ma la ricerca ci dice che la dieta mediterranea resta ad oggi l'alimentazione che ci protegge di più da tutte le grandi patologie, ma in Italia non la facciamo più, specialmente nei paesi del Mediterraneo, cioè nel sud Italia, dove purtroppo il sovrappeso e l'obesità, che una volta erano rari, sono diventati predominanti. Quindi dobbiamo proprio riscoprire quella vera e riscoprire i cibi poveri nella nostra quotidianità. E poi allora mettete... Sì, la proposta che abbiamo lanciato insieme a Deborah oggi è proprio quella di creiamo un fans club di Ippocrate, sì. E quindi mettete like sul nostro post e coinvolgeremo naturalmente i nostri amici, i nostri esperti. Ciascuno di noi dovrà dare il proprio contributo quotidiano alla riscoperta di una cucina, di una dieta mediterranea che ci faccia sedere a tavola con piacere e ci faccia fare veramente scorta di nutrienti preziosi. Andiamo a Pasquale da Milano per chiudere in bellezza con una domanda all'800 24 00 24. Oggi abbiamo un po' trascurato i nostri ascoltatori. Pasquale, buongiorno. Buongiorno alla dottoressa. Volevo fare una domanda. Cosa ne pensa la dottoressa del grano Cappelli che veniva coltivato negli anni 30? Erano queste spighe enormi alte 2 metri che poi sono state irradiate ai raggi X nel 71 a Bologna ed hanno tirato fuori il grano Creso. È da lì che c'è stato il dilagare di celiachi, eccetera, eccetera. Vediamo un po' cosa. Allora, sì, tante sì. Informazioni un po' da rimettere a posto, ma dottoressa Villarini, due chiarimenti per Pasquale. Guardi, il grano senatore Cappelli è un ottimo grano, è un grano antico e quindi è un grano che ha accompagnato anche la nostra evoluzione, quindi contiene tutta una serie di sostanze e anche il famoso glutine, anzi le componenti del glutine che sono la gliadina e la glutenina, in quelle concentrazioni che sono per noi fisiologiche. Fare l'associazione che tolto il grano senatore Cappelli dalla nostra dieta è aumentata la celiachia, questo è un pochino forzato, ci sono delle cose azzardato, sì un po', perché ci sono tanti motivi per cui c'è questa trasformazione. Diciamo che potrebbe l'eccesso di glutine, ma non tanto l'eccesso di glutine, la differenza in queste due proteine che ho detto all'interno dei nuovi grani, aver creato un po' di sensibilità al glutine, ma non è esattamente celiachia, cioè questo un discorso un pochino complesso da affrontare. Allora, invitiamo, però certamente ottimo grano, certo, da mangiare. Dottoressa, noi invitiamo i nostri amici, se vogliono magari avere più informazioni sulla sensibilità al glutine, che è una cosa diversa, come ha sottolineato la dottoressa Villarini, dalla celiachia, andare nel nostro archivio di Cuore Denari, trovate tutti gli approfondimenti ad hoc. Intanto, dottoressa Villarini, grazie per essere stata in cucina con noi. Grazie a voi. Stasera io farò la carbonara, non alla francese. No, esatto, o la matriciana, perché hai visto che c'è un ascoltatore che ha puntualizzato molti aspetti importanti di questo grande piatto. Li vuoi leggere? Allora, col guanciale si fa la matriciana, per la carbonara ci vuole la pancetta affumicata, i bucatini sono per la matriciana, i vermicelli per la carbonara. Mario, io vorrei che lei ci invitasse a cena. Esatto. Aspettiamo e le diciamo già subito di sì. E noi ci portiamo anche Felice Limosani, il nostro ospite di oggi, che vi presento solo rapidamente, poi lo interrogo a dovere fra qualche minuto. Benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Un grande creativo che sta animando molte iniziative di questo Salone del Mobile, un digital storyteller, solo che ai nostri ascoltatori poi dobbiamo tradurre molto accuratamente il suo lavoro, il suo impegno. No, poi sistemiamo tutti, sì? I computer, non preoccuparti, peraltro lui sapeva tutto del grano del senatore Cappelli. Beh, caspita, io sono un pugliesaccio di quelli che cucina e fa la spesa. Bravo. Sia ben chiaro. Quindi per noi la spiga di grano duro, quella alta 2 metri, è cultura. Senti, vuoi invitarci anche tu a cena? Abbiamo un'agenda piacere. Molto fitta, con mettiti in coda. Però... ci stiamo auto-invitando ovunque, però insomma va bene. Uno ci inviterà, no? Allora, dobbiamo parlare di tante cose, non solo fare questa chiacchierata con Felice, parlare di fisco e giovani, come possono comprare il nuovo arredamento della casa, naturalmente spendendo un po' meno del previsto. Fra un po' metteremo il naso nel mondo delle banche, ma prima entriamo nelle case degli italiani e nelle loro scelte in materia di arredamento e di cucina in particolare. La donna, non solo angelo del focolare, ma anche e soprattutto attenta e consapevole arredatrice della sua cucina. Lo conferma una ricerca condotta da Federcasalinghe in collaborazione con il portale Famiglia e Consumi, secondo cui nel 90% dei casi l'ultima parola sulle scelte in materia di arredamento spetterebbe proprio alle signore, che si rivelano tra l'altro sempre più attente a raccogliere e confrontare informazioni e prezzi. La consulenza di un architetto è percepita come un lusso per pochi e i parametri per la scelta dei mobili e degli elettrodomestici vedono al primo posto la qualità dei materiali e il prezzo, seguiti dal design. La cucina si conferma lo spazio più vissuto dell'abitazione nel corso della giornata. Il 65% delle donne italiane lo sogna come un ambiente unico, la cosiddetta cucina pranzo o cucina living. Un sogno che spesso passa da smartphone e tablet, strumenti preziosi per fare confronti rapidi e commentare con parenti e amiche, ma anche dalla televisione. Molte confessano infatti di innamorarsi di pentole ed elettrodomestici visti all'opera nei sempre più popolari show cooking del piccolo schermo. Quante belle cose ci innamoreremo noi in questi giorni visitando questo salone, Nicoletta. Ci meriteremo di avere 10 case per poterle riarredare tutte. Naturalmente ci sono anche gli sconti fiscali, ma non siamo più under 35, quindi non ne possiamo avvantaggiarcene. Allora, tra l'altro, 800 24 00 24, lancerei anche questa nuova così modalità di interpellare i nostri ascoltatori, chiedendo loro se ritengono che siano davvero le donne ad avere l'ultima parola quando si parla di arredare la casa, nella fattispecie c'è la cucina. Noi oggi stiamo facendo il focus su questo perché questo salone del mobile è dedicato in particolare alla cucina e il bagno, al quale dedicheremo un altro approfondimento invece magari domani. Su cosa eravate magari in disaccordo in casa nell'arredare la casa, appunto nel nuovo arredamento, come avete coniugato anche le esigenze economiche con il gusto e la creatività. Prima di tutto questo però un piccolo accenno alle novità finanziarie del giorno, perché c'è l'accordo per il fondo di stabilizzazione del sistema bancario italiano. Abbiamo anche stamattina disturbato di nuovo Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno, eccoci a noi. Sì, buongiorno a voi. Si chiama Atlante, ha una dote di 6 miliardi circa, dovrà intervenire sulle quote scoperte dei prossimi aumenti di capitale e in un secondo momento acquistare i titoli derivanti da cartolarizzazioni di crediti deteriorati. Insomma, un'operazione importante formalizzata ieri sera. Ci racconti l'esito di quell'incontro al Tesoro che avevamo già preannunciato ieri a Cuore Denari. Marco, cosa è successo ieri sera? Sì, ieri sera si è di fatto trovata, diciamo, la quadra di massima per questo fondo che sarà finanziato essenzialmente dalle banche, quindi un fondo per lo più privato. Questo è un punto importante, dicevamo anche ieri, se no Commissione Europea vigila e potrebbe stoppare, un fondo a cui contribuiranno le banche che servirà ad altre banche, quindi copertura e aumenti di capitale. Abbiamo la Popolare di Vicenza che comincia da giorni, poi arriverà Veneto Banca, arriverà il Banco Popolare, ma soprattutto servirà anche ad acquistare pacchetti di crediti deteriorati, che sono storicamente, diciamo, il grande peso, il grande fardello che grava sulle banche italiane. Oggi qualche stima arrivava a dire che con una dotazione di 6 miliardi, che è una dotazione di partenza alla quale si potrà aggiungere anche del debito, si potrebbe arrivare addirittura ad acquistare 40-50 miliardi di sofferenze o addirittura qualcosa in più. Insomma, cominciano a essere numeri importanti. Certo. Tra l'altro, Marco, per gestire questo fondo non nasce un soggetto completamente nuovo, ma una SGR che già esiste ed è quella della Cariplo, della Fondazione Cariplo. Sì, esatto, è un progetto che deve partire subito perché le prime operazioni sono ormai prossime, quindi si è ritenuto che non ci fosse il tempo di costituire una nuova SGR, una società di gestione del risparmio, ma fosse meglio utilizzarne una già esistente. Le fondazioni sono uno dei soggetti coinvolti e Cariplo uno dei principali, che ha questa SGR di cui parlavi, che è questa SGR già pronta, e quindi sarà proprio questo a seguire il progetto. E proprio questo ieri sera ha diffuso un comunicato in base al quale dice che i primi riscontri sono molto positivi sul mercato. Per partire il fondo ci deve essere, si diceva di 6 miliardi, sembra che buona parte sia già di fatto virtualmente incamerata. Certo, allora un fondo pronto a partire, ci dicevi, ma mancano comunque all'appello anche ulteriori provvedimenti da parte del governo, Marco, per renderlo operativo e soprattutto, questo ce lo dicevamo a microfoni spenti con Nicoletta, che è particolarmente interessata soprattutto all'aspetto che riguarda i piccoli, no? Risparmiatori, correntisti, cosa cambierà per loro, se cambierà qualcosa appunto, tutti coloro che sono i clienti delle banche interessati ai nuovi processi di ricapitalizzazione, ci sono delle notizie che devono sapere anche loro? Indirettamente sì, partiamo prima quello che accennavi, le nuove norme. Settimana prossima, probabilmente lunedì, il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un nuovo pacchetto che dovrebbe consentire di accorciare i tempi di recupero delle garanzie dei crediti deteriorati. Questo è un aspetto fondamentale, perché accorciare i tempi vuol dire aumentare il valore dei crediti deteriorati e quindi consentire di venderli a prezzi più alti. E qui arriviamo al secondo punto che dicevi tu. Se le banche potranno vendere a prezzi più alti i crediti deteriorati, dovranno mettere in conto ricapitalizzazioni minori, quindi di fatto si dovrebbe alleggerire la tensione sui titoli bancari. Questo vale naturalmente per chi ha in mano delle azioni, vale per chi ha in mano delle obbligazioni, non dimentichiamo che dall'inizio di quest'anno 2016 valgono le regole del bail-in, se una banca va in crisi anche i titolari di obbligazioni potrebbero essere un domani chiamati a intervenire. È evidente che se la pressione si allenta, il pericolo, diciamo, si allontana. E in fondo è questo un po' l'obiettivo dell'operazione, cioè creare, se vogliamo, un cordone di sicurezza sulle banche italiane, che hanno perso moltissimo da gennaio in borsa, e quindi mettere, diciamo, in sicurezza tutti, compresi naturalmente azionisti, obbligazionisti e clienti. Grazie Marco, allora dalle prossime giornate torneremo probabilmente a sentirti anche per seguire passo passo le nuove iniziative del governo proprio per dare il via libera operativo al nuovo fondo di stabilizzazione. Poi Marco parlava anche di banche in borsa, mi ha dato un assist perfetto direi, perché cosa? È tempo. Andare a sentire che cosa stanno combinando i mercati, loro non cucinano mai. Soprattutto le banche italiane, a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Mobili, compagni stabili, con gambe solide, con forme utili, eppure immobili. Testimoni degli eventi storici che terremoti sono riusciti a scuotere, che hanno visto. E allora eccoci di nuovo insieme per l'ultima mezz'ora da trascorrere con questa Cuore Denari in una nuova trasferta al Salone Internazionale del Mobile, stand della Lube, quindi parliamo di cucina, abbiamo a lungo parlato di carbonara, un tema che ha appassionato tantissimo anche il nostro prossimo ospite che presentiamo, e poi Nicoletta, insomma, si è ritrovato moltissimo in tutti i concetti che abbiamo elaborato in precedenza, in questo mix che è necessario anche, come dire, tra creatività e padronanza della materia che bisogna avere in cucina, no? Certo, già mi piace. Esatto, il nostro prossimo interrogare. Allora, grazie di essere con noi a Felice Limosani, è grazie digital storyteller. Adesso raccontiamo per bene qual è la tua professione, ma peraltro per chi volesse saperlo basta che vada a curiosare sul suo sito, e lui proprio con grande modestia mette un commento che gli ha rilasciato probabilmente un suo ammiratore qualche tempo fa, che gli ha detto: non ho capito esattamente che cosa fa, ma complimenti perché lo fa benissimo. Allora, che cosa ci fa il digital storyteller al Salone del Mobile? Appunto, che cosa ha a che fare il tuo mestiere, Felice, con l'arredamento? Ma allora, intanto ha a che fare anche con il titolo della vostra trasmissione, perché il cuore rappresenta la parte emotiva intangibile delle cose, della realtà o di quello che abitualmente produciamo o raccontiamo. Denari rappresenta la parte sostanziale, quella concreta, quella tangibile, quella che deve far tornare anche i conti, oltre non solo economicamente, ma anche in termini di necessità d'uso, di funzionalità. Quindi è un bilanciamento tra la concretezza e la creatività, tra le cose che non si vedono e le cose che si vedono. Detto questo, digital storyteller, lo dirò con grande semplicità. Bravo. Allora, ovviamente storyteller, per chi non lo sapesse, vuol dire raccontare storie, che voglio dire, non si inventa nulla di nuovo, se vogliamo. Omero è stato un grande digital storyteller, le nostre nonne, tutte le culture del mondo raccontano storie, fanno passare sentimenti, visioni, cultura, conoscenza attraverso le storie. forse abbiamo perso un po' questa come dire, questa mano della storia che accarezza, che fa sognare, che stimola l'immaginazione, che... la magia dei cantastorie. Esatto. E anche la tradizione. Esattamente, quindi io ho pensato a un certo punto di coniugare questa che è una vocazione secondo me universale dell'umanità con quella che è una componente digital. Cosa vuol dire digital? Ovviamente non banalizziamo pensando che sia l'associazione di musica, immagini e suoni, perché questo lo fa prima, lo fa da molto tempo prima e molto meglio di me il cinema, la TV, eccetera, eccetera. Digital vuol dire che oggi attraverso la rete si sono aperte delle nuove opportunità di condivisione. Quindi mentre succede qualcosa qui, mentre si racconta una storia qui, in questo momento, per alcune persone, 10, 100, 1000 che siano, la rete ci permette attraverso il nostro telefonino, attraverso i social network, di condividere immediatamente quell'esperienza che in apparenza sarebbe per pochi eletti, e proiettarla online per la condivisione, flussi di conversazioni che si attivano di fronte, di fianco a quel messaggio, a quel progetto, a quella comunicazione. Quindi si rafforza l'engagement, si dice che il coinvolgimento, che mi sembra una cosa di grandissima attualità e anche molto interessante. Per quale motivo non dobbiamo massimizzare e coinvolgere altrove, chissà in quale parte del mondo, altra gente a sognare intorno a un'idea? Anche quello che fate voi rientra in questa dinamica. Quindi digital storytelling è questo. Certo. Tra l'altro ci spiace non averlo saputo prima, perché ho appreso ieri, documentandomi un po' sulla tua carriera, che hai creato per Expo 2015 i murales del padiglione di Federalimentare Cibus Italia, che ci hanno ospitato per tantissime settimane. È vero. L'abbiamo appreso solo ieri, altrimenti ti avremmo coinvolto anche in quell'occasione. Eravamo proprio lì ad ammirare i tuoi lavori. Grazie. Grazie mille. Ma ormai questo questa liaison si è creata, e quando si crea subito il feeling è per sempre. Infatti. Quindi allora, Felice, comunque se posso permettermi, quei murales continueranno a vivere a Parma in una mostra collettiva a partire dalla fine di aprile in occasione di Cibus. Secondo me l'idea di coinvolgere altri narratori da altri mondi, giapponesi, francesi, tedeschi, intorno a un tema di grande attualità che è il cibo, non solo nel senso della qualità del cibo, ci sono altre cose da raccontare del cibo, non so, la sostenibilità dell'ambiente, la biodiversità, il recupero della memoria storica. E quindi con questi artisti abbiamo realizzato dei murales che verranno poi allestiti a mostra in una mostra monumentale, perché vi ricorderete la grandezza di questi murales a Parma, e quindi invito il pubblico, qualora volessero, certo. No, hai fatto anche bene a ricordarcelo, perché tu sai quanto dibattito c'è stato attorno allo smantellamento di tutto ciò che ha animato Expo 2015, e quindi molti si sono chiesti, ma insomma tutti questi edifici che sono stati attrezzati per questa grande manifestazione universale, dove andranno a finire? Quantomeno una parte sappiamo dove è finita, e questo ci fa molto piacere. Allora, c'è un altro motto che ti contraddistingue, Felice, e che è un po' l'emblema del tuo modo di lavorare: testa per aria e piedi nel cemento. Perché mi è piaciuta molto questa? Perché è un po' come dire: concediamoci di sognare mantenendo i piedi ben piantati a terra. Ci si possono sicuramente identificare in questo modo di dire i giovani che magari vorrebbero il meglio per sé quando iniziano a pensare a mettere su casa, desiderano circondarsi di quanto di meglio offre l'industria dell'arredamento e del design, poi però devono anche fare due conti. Ma secondo te, per te che fai in realtà grandi installazioni, grandi operazioni di creatività, si può coniugare un budget anche con la creatività? Ci dai qualche consiglio pratico ed operativo per chi ci ascolta? Ma mi piace l'idea del sogno. Signori, cari, lasciatemi. Ma il sogno è alla base e all'inizio della realtà. Chi di noi è riuscito mai a concretizzare qualcosa se non prima passando dall'anticamera dell'immaginazione del sogno? Quindi mi sembra un passaggio obbligato. Secondo, il primo consiglio che mi verrebbe da dare, è anche a buon prezzo perché non costa molto, prima di parlare di design, di oggetti, che per l'amor di Dio è molto importante essere circondati dalla bellezza e dall'estetica, ma secondo me il primo elemento da controllare è l'armonia. stare assieme, i principi del convivio, non so, queste televisioni sempre accese con questo gigantesche in un ambiente che non li accogliere bene anche. Nessuno ascolta questo brusio che potrebbe essere sostituito con una bella musica, non so, con una bella trasmissione, con una bella trasmissione radiofonica, ad esempio, al mattino, per esempio, condotta da due donne, per fare proprio un caso, un esempio così a caso, ecco. Svelo una cosa vostra, mentre prima scusami, il nome Nicoletta. Nicoletta, mentre trasmette, fa il suo scarabocchio, sì, ed è un cuore, quindi trovo che si concentra sia sempre così, una grande ecco svelato un altro segretino. Ecco, e forse anche il segreto di testa per aria e piedi nel cemento. Testa per aria, è assolutamente indispensabile recuperare il coraggio di sognare, perché oggi trovo che sia è veramente un atto di pura audacia, sognare, immaginare, avere il coraggio di fare cose diverse, sperimentando, mettendosi in gioco e rischiando. È chiaro che tutto questo oggi deve essere fatto con grande concretezza e con grande senso della realtà, perché non mi sembra che corrano tempi per cui la sperimentazione possa risolversi in un tentativo fallito di una qualsiasi attività, almeno che non si faccia l'artista allo stato puro, e non credo che nessuno di noi, ahimè, può concedersi quello che è un gran lusso. Quindi testa per i piedi del cemento vuol dire, questa è la mia ricetta, 51% di immaginazione, sogno e poesia, cuore, e cuore, quindi, e 49% di sostanza, concretezza e coraggio. E quindi un pensiero denari, per i denari, esatto, che perdono sempre di fronte alla sfida appunto tra cuore e denari. Felice, allora io adesso devo dare il traffico, poi abbiamo il nostro Luca De Stefani che ci racconta il bonus mobili, però ti chiederei di rimanere ancora con noi perché voglio sapere che cosa è combinato per il Fuori Salone di Milano, così cercheremo di chiamare a raccolta un po' tutti i non milanesi che magari sognano in queste ore di venirsi a fare un giro in questa città che, come anticipava prima Nicoletta, si trasforma letteralmente in questa 5 giorni, per cui tante cose, all'Università Statale ma non solo. A tra pochissimo. A dopo. Cuore e denari. Noi siamo i giovani più giovani. Ci dedichiamo per qualche minuto ai giovani, agli under 35 pronti a mettere su casa, ad acquistare mobili nuovi, per darci tutte le dritte su come utilizzare i nuovi incentivi fiscali. Il nostro Luca De Stefani, commercialista, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Oggi dovrà essere particolarmente telegrafico perché certo, i minuti che ci rimangono a disposizione sono pochissimi. Le faccio sentire la domanda di Lionello da Vicenza e grazie a lui daremo tutto l'ABC di questi incentivi. Lionello, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'opportunità di parlare con voi. Volevo fare questa domanda. Ci dica. Mio figlio fra un poco più di un mese si sposa e vorrebbe comprare assieme alla attuale fidanzata i mobili dopo il matrimonio e quindi usufruire anche del bonus mobili. Come deve comportarsi? Lui ha l'home banking per poter effettuare i bonifici. I bonifici. Ma quanti anni hanno questi ragazzi, Lionello? Allora, mio figlio ne ha 28 e la fidanzata ne ha 26. Mamma, che giovani. Mamma, guarda che ancora ci si crede al matrimonio, ci si lancia in questa operazione in questa età. Grazie Lionello. Allora De Stefani, abbiamo dato le informazioni necessarie intanto, no? A capire se possono avere il nuovo bonus mobili riservato alle coppie che quest'anno risultino coniugate o conviventi, quindi diciamo che la famiglia di Lionello è al completo in quanto a requisiti. Certo, è completo. I requisiti per il nuovo bonus mobili per le giovani coppie, ricordiamo che non riguarda gli elettrodomestici, bisogna avere tre caratteristiche, tre requisiti per poter beneficiare di questa detrazione fiscale. Ricordiamo che si tratta di una detrazione fiscale del 50% dell'importo speso con un limite massimo di spesa di 16.000 euro. I requisiti sono questi, sono tre requisiti. Essere una giovane coppia. Quindi almeno in un giorno nel 2016, quest'anno, bisogna rispettare il fatto di essere coniugati da anche meno di 3 anni, oppure essere una coppia convivente da almeno 3 anni. E il raggiungimento del terzo anno di convivenza deve essere entro la fine di quest'anno. per certificare questo è necessaria un'autocertificazione oppure un certificato di stato famiglia che attesti la residenza comune da almeno 3 anni. Per quanto riguarda... E quindi se il figlio di Lionello e la sua fidanzata non erano conviventi, non potranno utilizzare il bonus, mi pare, allora, di capire. Allora, o essere coniugati, o essere coniugati da almeno, da anche meno di 3 anni, e quindi nel caso del nostro ascoltatore rientra nell'agevolazione, oppure essere conviventi, però nel caso, solamente nel caso di convivenza, è necessario che questa convivenza sia perdurata da almeno 3 anni e il raggiungimento del 3° anno deve essere raggiunto appunto entro fine di quest'anno. Quindi il nostro ascoltatore rientra perché allora, si sposano a breve, quindi non vi è nessun problema, però c'è il problema, ci sono altri 2 requisiti, uno è il requisito anagrafico, appunto essere inferiori a 35 anni e ci siamo, il terzo requisito è quello di acquistare un'abitazione quest'anno o lo scorso anno e adibirla ad abitazione principale. Ecco, in questo caso forse, non lo so, se rientriamo nel caso del nostro ascoltatore. Infatti, una piccola raccomandazione sulle modalità di pagamento che devono essere rispettate appunto per poter ottenere il bonus, De Stefani? Sì, la recente circolare di fine marzo di quest'anno ha semplificato molto le modalità di pagamento. Prima si poteva pagare con carta di credito o con bancomat, ma se si sceglieva di fare il bonifico era necessario fare il cosiddetto bonifico parlante, quindi bisognava indicare il codice fiscale del soggetto che detraeva la spesa e il codice fiscale del soggetto che riceveva il bonifico. Dal primo di aprile, ma comunque l'interpretazione è comunque retroattiva, grazie a questa risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, il circolare dell'Agenzia delle Entrate, è possibile fare un bonifico anche normale e quindi non con le caratteristiche che abbiamo detto prima. Grazie, ecco. Grazie a Luca De Stefani. 5 secondi, anzi 10, e Felice Limosani per raccontarci dov'è la sua installazione più bella qui a Milano per questo fuori salone. In 5 secondi, ce la racconti? Scusa, pensavo salutassi gli ascoltatori. Eccomi, allora, Statale di Milano, ho cercato di interpretare come altri progettisti, architetti e artisti il tema che quest'anno viene proposto, Open Borders, ovvero apriamo i confini. Certo, non ce la perderemo, la fotografiamo, la faremo vedere attraverso i nostri social network a tutti i nostri ascoltatori. Noi invece domani vi aspettiamo di nuovo qui in diretta dal Salone del Mobile, intanto seguiteci, grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti.